9 in punto, la versione di Oscar. Ascoltatori, buon giovedì 12 di aprile. Ieri abbiamo tenuto una trasmissione che era una specie di scambio del testimone del pedoforo con Alessandro Milan. Ottimo Alessandro, che prima di me tutte le mattine mi tiene compagnia sul finanziamento pubblico del partito. Lui l'ha fatto anche oggi. Io invece ieri avevo fatto una scommessa, vi avevo detto: vedrete che i titoli di giornali domani saranno: non si tagliano di un solo euro i finanziamenti ai partiti. Ed è andata esattamente così. Ma io non sono di particolare intelligenza, non ho alcuna sfera per antivedere cosa avviene nel futuro, e che purtroppo una delle ragioni per cui dico che poi presto ci sarà uno più ottimista di me per dirvi che invece la colpa è degli altri se andiamo male in questo paese, come fa oramai anche il governo Monti. Io non mi piego a queste sciocchezze che mi deprimono venendo da gente da cui non me l'aspettavo, però perché oramai basta scommettere sempre al ribasso, e puntualmente avviene la cosa che scommette al ribasso, cioè a essere pessimista in Italia sei meno che realista. Puntualmente ieri, a proposito, i partiti hanno deciso che loro i rimborsi non se li tagliano, capito? Non se li tagliano neanche di un euro. Cioè, dopo che dal 94 a oggi hanno speso, o meglio, hanno rendicontato di spese con questa qualità dei rendiconti che vediamo nella Margherita come nella Lega. E inciso, chi se ne frega che sapesse Tremonti, Maroni. Il problema è che il problema riguarda i soldi, capito? I soldi che sono nostri. Allora, visto che dichiarano di avere rendicontato meno del 50% dei 2,2 miliardi che hanno avuto per il solo rimborso dei partiti, e a questo va aggiunto il rimborso per i gruppi parlamentari, per i gruppi regionali, eccetera, eccetera, e loro dichiarano di aver speso meno del 50%, zac, via, subito almeno il 50%, tanto ne hanno speso il 43%, niente. Invece, l'accordo è il litigio, e se bisogna chiedere alla Corte dei Conti o a un'autorità esterna, mi scappa da ridere, di guardare i bilanci. Io preferirei semplicemente l'estrazione a sorte, non devono essere i partiti a sceglierli, di professionisti che guardino i bilanci. Basterebbe questo, la Corte dei Conti. Io non credo che la magistratura debba entrare dentro le vicende dei partiti, non ne conosco uno che abbia vere procedure di democrazia. Lo so che adesso il PD, il Movimento 5 Stelle dicono che i veri democratici sono loro, però io non ne conosco uno, sbaglierò io. Detto tutto questo, da una parte i partiti non si tagliano un euro, dall'altra il governo si inventa sempre nuove tasse, e Piero Giarda vi ha spiegato che dalla spending review cessate di sperare che ci sia un taglio di spesa per meno tasse. La spesa va manutenuta, la spesa è sacra. L'intervista di Piero Giarda faceva il paio con quella del compianto ministro Padoa-Schioppa, che diceva che le tasse erano belle, la spesa pubblica è bella, le tasse sono belle, tutto è bello, allora la morte è liberatoria, dico io, se questa è la realtà della che mi aspetta su questa terra. Allora, di fronte a questa verità, non è un'opinione la mia, verità sono fatti incontestabili, sono: partiti non si tagliano, lo Stato non taglia le tasse e non taglia la spesa. Questi sono i dati di fatto della ripresa degli spread, che Monti adesso attribuisce ai cattivoni che criticano la riforma del lavoro. Quando la CGIL criticava la stesura iniziale su cui le imprese erano d'accordo sull'articolo 18, com'è che nessuno che ha detto che la CGIL tradiva l'Italia? È ovvio che non la tradisse, la CGIL faceva il suo mestiere. Allora, se il governo ribalta tutto e dà ragione alla CGIL e le imprese protestano, cosa devono fare le imprese? Non devono protestare? Devono stare zitte perché altrimenti Monti si arrabbia? Ecco, questa è il paradossale inveramento a pochi mesi di distanza, che la cornice di ridicolo pubblico del governo Berlusconi evidentemente sta diventando la cornice pubblica italiana, e quindi non dipendeva forse neanche da Berlusconi. C'è un basso continuo come quello della musica che sentite nel sottofondo, che sto tenendo apposta, che ispira al ribasso la vita pubblica italiana. E allora abbiamo scelto oggi due ospiti su questo quadro non particolarmente ottimistico, che segna uno dei miei ultimi appuntamenti qui, due ospiti con i quali commentare questa situazione in cui segni di luce non se ne vedono molti, a dire la verità, non se ne vedono molti. Leggerete sui giornali di oggi che il Tesoro giustamente si appresta a correggere al ribasso le previsioni di PIL quest'anno, meno 1,5%, ma conferma l'azzeramento del deficit al 2013. Attenti, attenti, attenti, se si cambiano le proiezioni sul PIL in base alle quali è stato fatto il Salva Italia a dicembre, significa che entro fine anno c'è una nuova manovra, con certezza, diventa certo a quel punto. Indovinate se sarà fatto ritagli di spesa o di aumento delle tasse. Non istituisco un premio perché altrimenti è troppo facile che lo vinciate. Comunque, è con noi in questa prima parte della trasmissione Alberto Marchiori. Chi è Alberto Marchiori, perché è qua? Alberto Marchiori è presidente dell'ASCUM di Pordenone, presidente di Confcommercio International, e ieri, leggendo un alfabeto della classe politica che hanno elaborato all'ASCUM a Pordenone, di cui è presidente Alberto Marchiori, ho fatto tanti di quei salti sulla sedia che ho chiesto di farlo venire in trasmissione. Vi leggo l'inizio dell'alfabeto proposto dall'ASCUM di Pordenone. Il nuovo alfabeto di una classe politica. Una classe politica che A. ha contribuito a un aumento della spesa pubblica in modo indiscriminato, B. ha disattivato la volontà popolare referendaria che aveva toccato gli interessi della casta e di coloro adesso vicini, C. ha percepito dei rimborsi elettorali in forza di una legge che ha annullato il referendum obbligativo sui finanziamenti dei partiti attraverso criteri molto innovativi, per esempio l'eliminazione di qualunque rendicontazione giustificativa, D. ha mantenuto tutti i privilegi per gli eletti e per coloro non più in carica dopo aver finto di averli ridotti. E a questo proposito sono tragicomiche le scenette di rinuncia di qualche ex presidente della Camera. E ha mantenuto in piedi tutti gli sprechi indiretti, e cioè legati alle multi utility, alle associazioni di comodo, agli enti creati ad hoc per sistemare qualche trombato. F. ha mantenuto e confermato incarichi e consulenze agli amici di partito. G. ha e sta sostenendo un governo tecnico che ha licenza di uccidere solo la povera gente e i piccoli imprenditori, strozzandoli, spremendoli, facendoli fallire. H. ha garantito una sopravvivenza agiata solo ai membri dei due rami del Parlamento, assicurando loro una pensione ricca e certa a fronte di tutti quei milioni di persone che se la sono vista invece posticipare sine die per anni. I. non può rinnovarsi perché rischierebbe di aumentare il numero di disoccupati della politica. J. non vuole interrompere le dinastie, con l'unica eccezione per il Trota, però che verrà puntualmente ripescato. K. non può fare una legge elettorale seria perché i cittadini rischierebbero di poter scegliere loro i loro eletti. L. non può ridurre la pressione fiscale e la burocrazia perché dovrebbe licenziare dipendenti pubblici e burocrati che non servono. M. non può e non vuole liberalizzare perché ridurrebbe realmente i costi ai propri cittadini, dell'energia, delle assicurazioni, banche, enti, multi utility, ma invece continua a sceneggiare furbe e finte liberalizzazioni che portano poco o nessun vantaggio. N. non può e non vuole fare una seria riforma della scuola e dell'università, perché anche in questo caso ridurrebbe le dinastie baronali, ma soprattutto rischierebbe di chiudere il vivaio di ministri che tanto bene hanno amministrato l'Italia in questi anni e in questo particolare momento. O. non può e non vuole fare parte a tutto campo dell'Europa perché rischierebbe di utilizzare appieno i fondi strutturali, oggi ne usufruisce solo per il 9-10%, il resto lo perdiamo, e soprattutto metterebbe gli italiani nelle condizioni di capire che l'85% della nostra legislazione è frutto di direttive comunitarie. Ciò dimostra di quanto si potrebbe limitare il funzionamento e pertanto la spesa del nostro Parlamento. E poi c'è una piccola ecco, va avanti. Allora, siccome di fronte al fatto che vi siano segmenti di rappresentanza d'impresa che ogni tanto perdono la pazienza e decidono di parlare con questa chiarezza, mi sono detto, chiamiamo Alberto Marchiori e associamoci almeno per qualche minuto al gusto di rivolgersi ai piccoli imprenditori, i propri colleghi che hanno il morso in bocca per dover pagare senza protestare e il basto sulle spalle del peso di tutta questa inefficienza intoccabile dello Stato e dei partiti, e sentirgli dire se è semplicemente uno sbotto di protesta o se in realtà si può fare qualche cosa. Allora, grazie e buongiorno ad Alberto Marchiori. Grazie a lei e ai radioascoltatori, buongiorno a tutti. Che si può fare? Vi è saltato lo sghiribizzo di una pura protesta oppure c'è una luce che si può intravedere attraverso azioni diverse dal solito, perché la situazione è straordinaria? Che dice? Vabbè, intanto non mi è venuto questo ghiribizzo a me e alla mia associazione, ma noi abbiamo iniziato ancora col governo Berlusconi a andare in piazza, che è una cosa inusuale per le partite IVA. Lo abbiamo fatto con tutti i politici che ci davano contro, ma noi avevamo già intravisto, perché il governo Monti è il killer di una classe politica che aveva già iniziato questo percorso col centro-sinistra prima, con con Visco e poi con Tremonti, che ha fatto tutta una serie di operazioni che hanno messo il piccolo imprenditore, le partite IVA, in grave difficoltà e conseguentemente anche i loro dipendenti. Oggi noi abbiamo l'onere della prova, ci fanno costantemente verifiche, ASL, NAS, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Ufficio delle Entrate, e molti vengono anche con arroganza a dire ragazzi, diteci cosa non va, perché tanto comunque troviamo qualcosa, oppure il problema è vostro, noi facciamo il verbale, tanto siete voi che dovete dimostrare il contrario. Cioè, di fronte a questa situazione, a gente che ogni giorno si alza depressa perché in modo subdolo questo governo più degli altri ha saputo, come dire, trasmettere agli italiani, ai cittadini, no? Così, lo spirito di delazione, la voglia di mettere l'uno contro l'altro, ha portato ad una depressione, come dire, automatica di molti imprenditori che in alcuni casi hanno ritenuto addirittura di togliersi la vita. Ecco, noi siamo arrivati a un punto che probabilmente, se non si pone rimedio immediatamente, qualcuno, anziché togliersi la vita, la toglierà qualcun altro, perché non ne può più e perché non tutti hanno questa capacità remissiva. Aspetti, la interrompo per dire che anche oggi vogliamo dedicare questa trasmissione a un giovane imprenditore, autoimprenditore che credeva in se stesso, si è ucciso il giorno di Pasquetta ad Arezzo, il 10 aprile, e c'è un intero paese adesso che si rimprovera. Era un ragazzo di 27 anni, è andato nei boschi della Val Tiberina, ha collegato il tubo di scarico dell'abitacolo della sua auto e si è lasciato morire, e il problema era il debito fiscale, perché la goccia che aveva fatto traboccare il vaso, facendogli perdere la capacità di credere, di poter andare avanti, era una cartella di pagamento del fisco, molto cara, perché di una cinquantina di migliaia di euro, rateizzabili sì in 40 cartelle, ma da 800 euro l'uno, e siccome si era trovato in crescente condizione di faticare a sbarcare il lunario, di fronte a questo ragazzo di 27 anni, che lo aveva detto a tutti nel paese, nel circondario dove abitava, che non ce la faceva più, e tutti poi si sono scoperti con il cuore dolente, perché non lo avevano preso troppo sul serio, abituato a considerarle di un certo tenore di vita e così via, e si è ucciso il giorno di Pasquetta. È l'ennesimo episodio, sapete che di cui ricordiamo non solo gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori e le partite IVA che si levano la vita, ma anche i dipendenti disperati, perché ne sono stati molti i casi e abbiamo più volte sentito tutti coloro che da un supporto psicologico all'organizzazione anche solo di eventi di solidarietà con i familiari, prestano la dovuta attenzione e il giusto omaggio a queste che sono le vittime di questi anni, che ci rendono particolarmente stupefatti di fronte all'indifferenza con cui l'Italia si sta abituando da mesi e mesi a questo numero di vittime. Io ricordo a tutti che in Grecia dall'inizio dell'anno scorso il numero di suicidi è a 1476 unità. In Grecia non mi sembra un numero di fronte al quale suicidi economici, non mi sembra un numero di fronte al quale si possa sorvolare con tanta leggerezza, e sono oramai decine e decine e decine e decine i casi negli ultimi mesi nel nostro paese. Marchiori, la politica, lei diceva, diffida automaticamente quando le rappresentanze d'impresa iniziano a dire noi non ce la facciamo più, state mettendo un paese in ginocchio, e non è questione di tecnici destra o sinistra, perché c'è una linea di continuità in quello che state facendo. Io sono totalmente d'accordo con lei. Di fronte a quel punto, alla diffidenza, all'insofferenza dei partiti e della politica che non taglia le spese per sé e per lo Stato, qual è il punto oltre il quale la rappresentanza d'impresa deve andare per dar voce a disperazione di un paese che rischia troppo del proprio passato e del proprio presente e del proprio futuro, e invece la linea oltre la quale non andare, perché comunque altrimenti si dà davvero adito ai partiti che dicono volete fare il nostro mestiere invece del vostro? Beh, probabilmente saremmo sicuramente molto più bravi di loro a fare quello che hanno fatto, perché se le cose che si vedono sono quelle che abbiamo appena elencato, io penso che questa gente che anche ieri a Porta a Porta ha dichiarato di essere professionista della politica, mi pare che abbiamo un livello scadente di professionismo della politica. La colpa è degli altri, è sempre degli altri, ma ne ha parlato un segretario come Casini, che è lì da quando aveva i calzoni corti e ha visto vissuto i vari governi, poi è stato l'opposizione, ma questa gente qua quando ha votato la legge per il rimborso spese dei partiti dov'era? Perché adesso alzano tutti la mano e tutti hanno la ricetta giusta per fare le cose in modo corretto, ma dov'erano fino a ieri? Cioè sono stati loro che fanno queste cose qua. Qui sembra un po' come quando i ragazzi, no, che sono tutti bravi ragazzi da solo, ma quando sono insieme tirano i sassi sull'autostrada o fanno danni collettivi. Il Parlamento mi pare che funzioni così, singolarmente tutte persone oneste. Poi quando sono là, se devono votarsi gli aumenti se li votano, se devono massacrare i cittadini con nuove tasse lo fanno perché... però l'importante è fingere di aver fatto delle riforme che hanno apparentemente ridotto i privilegi per la casta, ma le vere riforme, i veri tagli, i veri sprechi qui nessuno li vuol fare e questi qui non lo faranno, quindi le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, le partite IVA, se vogliono mantenere un ruolo di rappresentanza si devono dare da fare e devono andare, se serve, in piazza, come i miei colleghi dell'Umbria vogliono fare, perché non abbiamo alternative. Il problema è quando andremo a votare chi voteremo, perché qui non c'è un partito in questo momento che si possa ritenere di rappresentare il popolo degli italiani. Allora, io non ho sbagliato oggi chiedendo a Marchiori di iniziare la trasmissione perché sono davvero integralmente d'accordo con lui e so che di rischiare ancora di più dicendo questa roba a questi microfoni. Penso che la condizione del paese, della sua struttura produttiva, di chi crea reddito, di chi esporta, di chi lavora per un mercato domestico, non nella parte che sta a nicchia e che fa patti con le prezzi, i tariffi e le finte gare del settore pubblico, tutta questa parte d'Italia e questa rappresentanza di impresa e dei lavoratori che stanno in queste imprese, secondo me stanno nelle condizioni che ha detto Marchiori e deve esaminare con sereno spirito di responsabilità civile, la possibilità di iniziare dal basso forme di protesta civile, legalitaria, ma che escludano le vecchie rappresentanze politiche. Accada quel che accada, ma la indifferenza o forse l'inconsapevolezza, non so cosa sia peggio, da parte di chi dovrebbe cambiare questo corso delle cose, che mette solo sulle stesse spalle di prima, degli stessi, dell'Italia legale, il prezzo crescente di pubblica, settore così inefficiente e anche di un sistema dei partiti che non ha proprio la faccia di ammettere, nemmeno dopo aver rendicontato il 43% di quello che ha preso dal 94 a oggi, non si decide a levarsi un solo euro dalla tasca, un solo euro, con tutti quelli che leva ogni settimana in più dalle imprese e dai lavoratori. Siamo in una condizione veramente di inconsapevolezza o di indifferenza da parte della politica. Allora, di fronte a questo, ben vengano i mille fuori dal basso e imprenditori, diciamo così, di fegato e coraggio nella rappresentanza, perché bisogna averlo, come Alberto Marchiori, che ringrazio per essere stato qui con noi, lo ricordo ancora una volta, è presidente dell'Ascom di Pordenone e presidente di Confcommercio International. E adesso andiamo a un altro potente segnalatore dal basso di numeri, cifre e andamenti dell'economia italiana e della sua iniqua ripartizione, diciamo così, dei sacrifici e delle sofferenze, Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, che anche oggi ho l'onore e il piacere di avere con noi, perché la CGIA di Mestre ieri ha lanciato uno dei suoi tanti benemeriti, efficaci, documentati allarmi, e questa volta l'allarme, in un paese che difetta di posti di lavoro al record, oltre il 80% di disoccupati giovani, sia pur calcolati solo su quelli che cercano un lavoro, nelle classi giovanili sono il 25% quelli che partecipano al mercato del lavoro, quindi quel 30% è in realtà l'8% di tutti i giovani disoccupati, ma perché i più non cercano neanche lavoro, per carità, ma in una situazione così preoccupante la CGIA di Mestre ieri ci dice: guardate che ci sono centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro, non di nuovi posti di lavoro, di posti di lavoro tradizionali, tecnici, apprezzatecela, che nella crisi oramai rischiano di sparire. Allora, buongiorno Bortolussi, e com'è questa storia e che posti di lavoro sono? Allora, buongiorno a voi, buongiorno Giannino. Il discorso questo noi lo ripetiamo, qualcuno ci dice vi ripetete, sì, perché finché la gente non capisce bene ripetere le cose. Vedete, si fa un gran parlare della disoccupazione giovanile, bene fa Giannino a dire qual è in realtà, perché su 6 milioni di giovani, se uno dice che un terzo è a spasso, uno pensa subito a 2 milioni. In realtà invece, siccome la disoccupazione statisticamente si calcola sulla forza lavoro che è data dagli occupati più i disoccupati, sono 428.000 circa i disoccupati reali, per dare la dimensione del fenomeno. Però detto questo, rimane il problema che in Italia ci sono dei posti da coprire e ogni anno c'è un dato che emerge: 45-50.000 giovani che potrebbero trovare lavoro in alcuni mestieri che rimangono invece senza qualcuno che li faccia. Allora l'Excelsior, che è una banca dati fatta dal Ministero del Lavoro Unione Camere Nazionale, ogni anno testimonia che in lavori manuali rispettabilissimi, perché sì, ci sono quelli delle imprese di pulizie che ormai sono vere aziende, mi spiego, ma ci sono in tanti altri lavori, da saldatore ad autista, a camionista, a operaio specializzato, muratore, dipintore, posti che rimangono vuoti, non si trova chi li copra, in un paese dove ormai ci sono 2,5 milioni di immigrati, e qui uno può dire per fortuna o non per fortuna, che fanno gran parte di questi lavori, quindi parte sono coperti da loro e parti rimangono senza padrone. Questo è il problema. Poi c'è un altro fenomeno che deve farci capire come stanno andando le cose. Qui non è che diamo un giudizio di valore, molti di questi posti potranno essere considerati anche marginali, per carità, però sono posti che stanno sparendo, lavori tradizionali. Secondo noi nei prossimi 10 anni spariranno qualcosa come 385.000 posti di lavoro. Dove? In che mestieri? Sempre nei soliti, quelli manuali che gli italiani ormai non vogliono più fare. E sono sempre i soliti: falegnami, venditori ambulanti, sono poi dopo anche muratori, autisti di autobus, muratori, carpentieri, falegnami nell'edilizia, braccianti agricoli, sarti, eccetera. Qualcuno dice: ma sono mestieri del passato, questa è un'Italia che non esiste più. Beh, io ricordo, non so se è mai capitato anche a te, Giannino, di vedere anni fa sul Corriere della Sera che c'erano delle inserzioni pubblicitarie, mi spiego, catene di supermercati svedesi che cercavano calzolai. Non so se ti è mai successo. Come no. Ecco, e dopo devo dire anche una cosa: è molto importante, questi mestieri tradizionali che non costano alla società, si autofinanziano, si autotengono, non sono posti di lavoro che qualcuno crea, mi spiego, investendo qualche milionata, ma sono posti di lavoro che si autocreano, no? Autoimpiego. Beh, sono un presidio nelle città, nei quartieri. Quando sparisce il calzolaio, il barbiere, di solito quei quartieri che prima erano vivaci, par compreso, altre piccole attività, no? Quello che vende alimentari, eccetera, sapete cosa succede? Che quello diventa un dormitorio, non è più un quartiere, diventa un dormitorio come in altre città del mondo. Noi abbiamo questa risorsa, ce l'abbiamo ancora, è tradizionale, non do un giudizio di valore, dico bisogna mantenerli a tutti i costi, dico che perdiamo qualcosa di importante e che i posti di lavoro ci sono. E le do un dato, vede, anche questo è spannometrico, però nelle scuole professionali, ormai nelle scuole professionali, l'80% degli iscritti, non in tutte le classi ovviamente, ma in alcune zone del paese, l'80% degli iscritti alle scuole professionali è di immigrati, perché certi lavori noi italiani non vogliamo più farli. Ormai abbiamo una concezione che i lavori importanti, utili, sono quelli di altissimo livello, ma anche a Silicon Valley c'è chi fa, mi spiego, chi pulisce le case, chi lava i piatti, chi serve a tavola, mi spiego? No. Anzi, il problema è, negli anni in cui noi ci siamo abituati a descrivere l'America, sto dicendo gli anni in cui l'America tirava eccetera eccetera, il più della creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto quelli nelle fasce di età in cui noi siamo più lontani da una partecipazione al mercato del lavoro da paese avanzato, cioè nella fascia ipergiovanile, nella fascia femminile, nella fascia anziana, bisogna dire la verità, è avvenuta innanzitutto soprattutto nelle fasce che sono quelle non tanto a bassa qualificazione, perché molti di questi lavori tradizionali, per così dire, che sta citando Bortolussi, sono anche ad alta qualificazione tecnica, perché non è che mettere le mani su un materasso, per esempio, lo possono fare tutti, non è così. Ricordo i vecchi materassai che cardavano la lana nei cortili quando io ero piccolo, per esempio, un altro dei mestieri spariti. Detto questo, è proprio in quei settori che sono, diciamo, a minore intensità di remunerazione, non a più bassa intensità di capacità tecnica, che altrove l'esplosione dell'occupazione ha creato partecipazione al mercato del lavoro molto molto molto più alta della nostra. Noi invece facciamo saltare questi settori quando poi siamo anche più deboli degli altri in quelli ad alta intensità tecnologica e di capitale investito. Ovviamente qui c'è un po' meno capitale investito, ma c'è una skillness di capacità tecnica personale molto elevata richiesta. È un po' così, Bortolussi? È così, ma soprattutto proprio non solo ti do ragione, ma vedo che sei un profondo conoscitore di queste cose, e mi piace citarti Peter Drucker, che era di origine austriaca, quello che è stato, diciamo, il guru del management internazionale, no? Sì. Di origine austriaca, cosa è stato quello che ha insegnato il management al mondo, anche i giapponesi. E sai che profilo lui descriveva come esempio di knowledge worker, di lavoratore della conoscenza? L'infermiera che fa tetto con l'ammalato su. Mi spiego? Che usa una tecnica che non è semplice. E lui citava proprio questo, come lavoratore della conoscenza, perché noi siamo abituati a pensare solo alle alte tecnologie, agli altri profili professionali, ma ce ne sono alcuni, mi spiego, che sono importanti per la vita. L'autista, tu non puoi prescindere per esempio anche dall'autista del mezzo pubblico o dal camionista, non puoi prescindere, se però crei una cultura per cui questo è un reietto della società, mi spiego, un intoccabile, non è degno di partecipare alla vita sociale perché fa quel lavoro, è chiaro che uno farà di tutto per evitarlo. Se l'unica cosa che è importante è la laurea, mi spiego, e dopo rimanere disoccupati, e qui ti devo dire una cosa, c'è anche tutto un discorso, io parlo dei mestieri tradizionali, mestieri anche della conoscenza, perché ci vuole appotare una vigna, non è che impari, mi spiego, sul libro, ci vuole, bisogna imparare facendo, ci vuole una grande cultura, ma ci sono anche mestieri tradizionali che rendono, per esempio, non ti cito perché non è in estinzione e può essere ridicolo per qualcuno, il casaro. Il casaro è un mestiere che sarebbe quello che sa fare il formaggio. Il formaggio, no? Com'è? È richiestissimo, richiestissimo, e guadagna molto bene, così come il maniscalco guadagna molto bene. Mi spiego, il tecnico fumista, no? Che sarebbe poi lo spazzacamino moderno, ma ha telecamere, sistemi moderni, sono lavori del futuro, non del passato solo. E vedi, e mi piace dirti anche una cosa, se è possibile, vedi, il nostro paese non solo sta abbandonando queste cose, ma questi sono mestieri che in altri paesi, sai chi fanno? I giovani. Esatto. Allora, in molti paesi come Germania, Francia, noi pensiamo che tutti facciano i tecnici, mi spiego, di informatica o cosa, no, c'è gente che fa anche questi mestieri, perché in media in Europa il 40% dei giovani lavora e studia, ma un lavoro serio che non è solo portare le pizze, non è solo, certo, hai capito, servire al bar, un lavoro di 12 mesi pagato 13-14 in regola e tutto, questi lavorano e studiano perché la struttura universitaria non è la responsabilità individuale, il giovane che non capisce niente per cui non lavora e studia, no, ci sono le strutture che gli permettono di lavorare e studiare. Cioè diciamo che questo è un messaggio che stiamo lanciando soprattutto ai padri in ascolto, per mettersi una mano sulla coscienza e cercare di discutere con i loro figli, di indirizzarli meglio, non solo a inutili lauree che col 3+2 sono diventati ancora più inutili. Eccoci qui, tornati in studio, abbiamo fatto un inizio di trasmissione con Alberto Marchioli, presidente dell'Ascom di Pordenone, presidente di Concommercio International, su la protesta, diciamo così, che deve immaginare di fare pezzi di rappresentanza dell'impresa di fronte a questa situazione di tasse che crescono, spesa pubblica che non scende, importi chiesti alle imprese da uno Stato che non paga le imprese e naturalmente partite che non si tagliano un solo euro di finanziamento. E poi abbiamo sentito con Giuseppe Bortolussi la realtà di centinaia di migliaia di posti di lavoro tradizionali, è vero, ma ad alta qualificazione tecnica, e molti dei quali restano ad alta remunerazione personale, che rischiano di sparire nella realtà della domanda dell'offerta italiana di lavoro, perché i giovani non li considerano, perché le famiglie italiane non le considerano, eppure un errore per tutti, perché qui c'è da rimetterci rispetto a esperienze di altri grandi paesi che sono più avanti di noi senza aver fatto questo errore, perché non è così in Germania, non è così negli Stati Uniti. Sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo a commentare ancora con Marchiore Bortolussi fino alla fine. Iniziamo con Fabio da Bologna. Prego Fabio. Buongiorno Giannino. Ascolti, niente, io sono un agricoltore di 25 anni. Vivo con mio padre, ho iniziato più o meno alla fine delle superiori, ma sempre ho lavorato in campagna comunque perché era la mia passione. Però purtroppo mi rendo conto del fatto che quando vedo tutti i giovani, oddio i giovani, i miei coetanei poi, che si lamentano continuamente del lavoro che non c'è, che probabilmente dovrebbero essere più specifici nel lamentarsi, cioè nel dire che non c'è il lavoro che vorrebbero, perché secondo me del lavoro ce n'è, però purtroppo viene ancora considerato come lavoro più usurante, direi da molti viene considerato come un lavoro umiliante purtroppo. E io mi rendo conto che purtroppo tante persone che mi vengono a chiedere, che poi soprattutto vengono sempre a chiederti il posto di lavoro quando purtroppo ci sono dei periodi di crisi, perché quando tutto va bene li possono fare gli altri questi lavori, tipo il muratore, tipo l'agricoltore, tipo il bracciante, perché comunque si fa fatica, è meglio che la fatica la facciano gli altri. Mentre quando il lavoro non c'è, allora è un'ingiustizia che questi lavori siano fatti da immigrati, perché ci portano via il lavoro a noi italiani. Beh, io sono dell'idea che io ho fatto lavorare persone straniere nella mia azienda, sono stato contentissimo, e io darò a loro il lavoro prossimamente, non agli italiani che quando andava bene non mi chiedevano mai nulla, mentre adesso... Attento Fabio, che puoi essere equivocato in quello che dici, anche se naturalmente capiamo, per così dire, io capisco l'amarezza delle tue considerazioni, però attenzione poi a non passare dalla parte di chi si può facilmente sentire replicare come preferisci. Quindi è una questione di preferenza, che Fabio descrive una realtà del mondo del lavoro italiano. Lorenzo da Brescia, che pensa Lorenzo? Sì, buongiorno, io più o meno come quello discorso che stava quello precedente, comunque volevo rispondere al signore prima, so che se Marchiori o l'altro, che il lavoro se va non vogliono fare, non è vero niente, se lei gira il lavoro non ne trova, qualsiasi lavoro che vuole, quello che c'era ce l'hanno portato via, lei va in qualsiasi negozietto, in qualsiasi, trova sempre biglietti, ragazza italiana, cerca lavoro, babysitter, badante, di tutto e di più. Non trova mai niente. Poi è come quello del money scarto, ma stiamo scherzando, ma se compri le scarpe a 5 euro, vabbè, sono dei cinesi, che te ne frega, cambia ogni 10 giorni, 30 euro c'è 3 paio di scarpe gratis, 3 scarpe nuove tutto il mese, voglio dire. E quell'altro che fa quello del fuoco del camino, ma che con le tasse che ci sono il giorno d'oggi, ma come cavolo fanno a starci dentro? Ma va, per me è tutta una farsa, fondo sulle braccia che non vale niente secondo me. Vabbè, Lorenzo, francamente c'è chi elabora numeri e c'è chi pensa di vedere la realtà senza numeri. Noi siamo per i numeri, Lorenzo, io non è che ti dico che... Però chi dice, ma non è vero niente, ma guardate la verità, la verità uno la guarda nei numeri, secondo me. Poi può avere opinioni diverse, quindi io difendo invece il metodo CGA Bortolussi, per così dire, anzi lo vorrei vedere attuato con le risorse che hanno altre rappresentanze d'impresa. Sapete cosa ne potrebbe venire fuori, invece che i miracoli che ha fatto lui con 4 euro e un po' di giovani ricercatori non troppo pretenziosi, che non fanno grandi convegni con i grandi nomi internazionali, ma li meriterebbero e come, per quello che mi riguarda. Ora abbiamo il traffico e poi andiamo alle conclusioni con ancora Marchiori Bortolussi. Allora, giustamente alcuni ascoltatori dicono, ma com'è la parte internazionale, non la fai più? Lo so, ma ci sono, in questi ultimi giorni siamo stati per così travolti dalla realtà italiana. Vi do solo 4 pillole. La prima è che condivido l'appello di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, che ha già fatto 2 manovre da che ha vinto le elezioni e che ieri ha implorato gli altri premier. Stava pensando esattamente a Mario Monti, che è quello che più ha citato la Spagna in questo periodo, dicendo che si deve alla Spagna al contagio. Noi avessimo fatto in proporzione al bilancio pubblico quello che ha fatto la Spagna negli ultimi 2 anni sotto il governo socialista e sotto questo governo, saremmo molto più avanti, e allora sì, che avremmo titolo per dire che sono gli spagnoli il problema. Se avessimo deciso per esempio che nel perimetro della pubblica amministrazione le amministrazioni in perdita da nove mesi mandano in mobilità i loro dipendenti pubblici non funzionari, come abbiamo spiegato in una trasmissione. Ma sapete quanto più avanti saremmo avanti? Ci pensi Mario Monti prima di utilizzare il nome della Spagna in vano. Poi altre due rapide cose sul suo column sullo Spiegel, trovate Wolfgang Munchau che ci dice che abbiamo ragione a tenere i dors perché le aste di liquidità della BCE hanno comprato fiducia per 3 mesi ma l'effetto è finito ed è giusto che sia così guardando i fondamentali. E anche Martin Wolf sul Financial Times di oggi spiega che ha torto la Bundesbank quando dice che tutto l'aggiustamento va messo sui paesi euro deboli, perché dice la produttività non può che continuare a divergere in questo modo nell'euro area e quindi per paesi come Italia, Spagna e anche Francia questa impostazione comporterà alla fine l'impossibilità di reggere comunemente l'euro a chi ha produttività che nella crisi più grave per gli euro deboli non può che continuare a divergere invece che convergere nei confronti dei paesi che ce l'hanno invece più elevata. Dovremmo occuparci di più di elezioni francesi man mano che andiamo al 22 aprile al 5, ma adesso voglio tornare a chiudere la trasmissione risentendo Marchiori e Bortolussi. Marchiori, suoi associati avevano più fiducia in questa cornice politica del governo dei tecnici, sono anche un po' loro come l'effetto di credibilità che si va smarrendo dopo le aste di liquidità della BCE dopo 3 mesi, che aria sente intorno ai suoi iscritti? Ma guardi, inizialmente un po' tutti pensavano che questo governo tecnico fosse l'unica alternativa, anche i sondaggi che sentiamo confermano questa tendenza, non c'era un'alternativa per cui Monti, che aveva una sua dignità, una sua rispettabilità anche a livello europeo e mondiale, sembrava essere la persona giusta al momento giusto. Il problema è che poi i fatti hanno dimostrato che anche Monti non è lì per dare sfogo alle proprie capacità professionali, alla fama che lo ha preceduto, ma deve fare i giochi che questi partiti gli impongono e quindi deve faticare a mantenere degli equilibri, secondo me rimettendoci anche lui la propria faccia. E quindi a questo punto Monti per noi o un altro è la stessa cosa, non sta facendo nulla, non sta dando prova delle capacità che lui ha sempre dimostrato di aver avuto, facendo delle cose talmente elementari che probabilmente l'ultimo dei nostri associati saprebbe fare meglio. Aumentare le tasse in modo così semplice lo hanno fatto anche quelli che lo hanno preceduto prima, lui l'ha fatto in modo ancora più pesante e non ha saputo fare quei tagli importanti, ma soprattutto non ha saputo prendere di mira i potentati, le grosse lobby, anzi le ha favorite, perché c'è stato anche qua uno scambio di favori. Se pensiamo che grazie al nostro Draghi sono stati liberati parecchi miliardi di euro a favore delle banche e queste banche poi li hanno investiti immediatamente in titoli di Stato, è chiaro, è tutto evidente che qui c'è un accordo col governo. Comunque ed è tutto patente il fatto che mentre ai pensionati gli si è alzato d'amblè, ed è stato giusto farlo, di anni la prospettiva di lavoro, non essendo l'amministrazione pubblica in grado nemmeno di avere il numero di quelli che finivano nei guai, i famosi esodati, perché così alzandoli erano in mobilità, perdevano i requisiti, hanno scoperto poi che erano più di 10 volte tanto quanto pensassero, poi lo si è fatto in pochi giorni, 48 ore per i pensionati, ai partiti non si leva un euro e al resto della spesa pubblica poi non si leva un euro, pazzesco. Bortolussi, in un minuto, pensi che dal mondo dell'impresa piccola, artigiana, commercianti, partita IVA eccetera ci sarà la spallata decisiva alle amministrative, alle prossime politiche, qualcosa cambierà oppure no? Ma temo di no, temo che comunque anche il campione sia esiguo perché ci sia la spallata, mi spiego, in ogni caso i partiti lo disconosceranno qualsiasi risultato sia, perché vogliono tirare a campana. Il problema vero è che sentivo Marchiori, sentivo lei, vede, il discorso è questo. Questa Italia ha bisogno di realizzare tutto quello che ha detto, ma Monti ha fatto 3/4, non ha mica finito però. Sul pubblico impiego siamo l'unico paese, nonostante la lettera del 5 agosto della BCE, che non ha fatto niente sulla pubblica amministrazione, ricordatevelo. Allora stanno pagando tutti quelli che poi non hanno nessun paracadute. Bravo. Per esempio un piccolo imprenditore, un artigiano, quando non ha più lavoro, cosa gli resta da fare? qualcuno dice suicidarsi, io dico no, va in cerca magari di lavorare in nero. Ecco, e allora su questo ti fermo, perché siamo sempre la solita e a difendere i disperati che dallo Stato sono ridotti a questo. Grazie a Marchiori, grazie a Bortolussi, appuntamento a domani. 9 in punto. Yeah.